giornale radio del Friuli Venezia Giulia. A Pantianico i carabinieri del RIS si cercano nuovi indizi per trovare l'assassino di Benita Gasparini. L'incendio di Monte Reale è presto il trasferimento in altre strutture per i ragazzi della comunità per stranieri. Cade per 6 metri in una forra in Val Resia, escursionista olandese recuperato dall'eliambulanza. Piscina Acqua Marina, iniziata la demolizione a Trieste per completarla, serviranno 2 mesi. Grecia in fiamme, le istruzioni delle agenzie per chi ha già programmato una vacanza a Rodi o Corfù. Raccontare Lignano è uno degli obiettivi del corso di scrittura creativa, a dirigerlo lo scrittore Alberto Garlini. 12:31, buongiorno da Lorenzo Gerlinzoni e Rita Micoli in apertura di questa edizione del giornale radio regionale. La cronaca, reperti, tracce sfuggite ai primi sopralluoghi nella casa di Pantianico, utili a dare un nome all'assassino dell'anziana Benita Gasparini. A cercarli da oggi saranno i carabinieri del RIS, reparto investigazioni scientifiche. E intorno a RIS, il reparto investigazioni scientifiche dei carabinieri a Pantianico di Mareto di Tomba. Gli specialisti dei carabinieri stanno arrivando in questi minuti per effettuare dei rilievi sulla casa dove è stato rinvenuto il corpo di Benita Gasparini e sull'auto di Luca Rimino, entrambi posti sotto sequestro dall'autorità giudiziaria. All'attività dei carabinieri del RIS assisteranno anche i consulenti dell'associazione I Nostri Diritti di Udine, incaricati dai familiari di Benita, in particolare dal figlio Gabriele, di seguire la vicenda. Intanto l'autopsia svolta dal medico legale Carlo Moretti ha confermato che i colpi che hanno sorpreso alle spalle l'89enne Benita Gasparini sono stati 2, rivolti con la lama verso l'auto, uno superficiale e l'altro più profondo, da interessare il polmone. Botte e cucite in procura a Udine. La PM che si occupa del fascista lo sta attendendo nei prossimi giorni la relazione da parte del medico legale, che stabilirà quale dei 2 colpi sia stato sferrato per prima e i risultati del materiale biologico prelevati da sotto le unghie della donna. Pantianico, Giovanni Tornina, TGR Friuli Venezia Giulia. Indagini in corso anche a Monte Reale Valcellina per capire l'origine del rogo che l'altra notte ha reso inagibile la struttura che ospita 15 di minori stranieri non accompagnati che saranno trasferiti. Hanno dormito in 2 strutture diverse, una a Malniso e l'altra ad Aviano, e 15 minori non accompagnati che alloggiavano a Monte Reale Valcellina, nella struttura di proprietà della parrocchia, dichiarata inagibile dopo l'incendio di sabato notte, parzialmente sequestrata. Stanno tutti bene, ragazzi, ha confermato il sindaco di Monte Reale, Igor Alzet, che li ha incontrati stamattina al loro risveglio ed è stato in loro compagnia per ore, sabato notte a partire dalle 2. Le operazioni di spegnimento dell'incendio da parte dei vigili del fuoco sono state complesse per via del grande calore che proveniva dal seminterrato dove si è sviluppato il rogo. I minorenni sono stati allertati dall'odore acre di fumo. Quando un vicino ha visto l'incendio e ha chiamato il 112, i ragazzi erano già usciti. A guidarli un operatore che si trovava con loro, uno dei 75 dipendenti della cooperativa Edis, che gestisce diversi edifici adibiti ad ospitalità per minori non accompagnati. La stessa cooperativa aveva in mano la gestione dell'immobile di Pasean di Prato, dove un incendio uccise un ragazzo il 31 dicembre scorso. Nei prossimi giorni una squadra specializzata dei vigili del fuoco eseguirà un sopralluogo per tentare di individuare l'origine dell'incendio. Le indagini sono svolte insieme ai carabinieri sotto il coordinamento della procura di Pordenone. Il presidente della cooperativa Edis, Michele Lisco, dice che i ragazzi tendono in maggioranza a fumare, ma sul rischio legato alle cicche delle sigarette loro possono fare ben poco perché non possono perquisirli. I 15 giovani passeranno la prossima notte in un albergo di Aviano, poi saranno man mano trasferiti in altre comunità. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Ancora cronaca, intercettati nella tarda serata di ieri dalla polizia stradale di Gorizia all'altezza dello svincolo di Villesse i presunti autori dell'omicidio di Albert Deda, cittadino albanese 24enne, omicidio avvenuto ieri a Padova, e del tentato omicidio di 2 connazionali di 26 e 28 anni. I 2 sospettati dell'accoltellamento sono stati sottoposti a fermo, eseguito questa mattina appena dagli agenti della squadra mobile di Gorizia insieme ai carabinieri del nucleo investigativo di Padova, che avevano diramato ieri le ricerche dei due fuggitivi. Ancora 20 chilometri e i due albanesi di 19 e 24 anni sarebbero usciti dal territorio nazionale. Intervento di soccorso in Valresia nel tardo pomeriggio di ieri, impegnati tecnici della stazione di Moggio Udinese del soccorso alpino della Guardia di Finanza per un escursionista olandese di 59 anni caduto durante la discesa nella forra del Rio Ronc. A chiamare i soccorsi due dei cinque componenti del gruppo connazionali dell'infortunato, che sono usciti dal percorso per cercare un punto in cui il cellulare agganciasse la rete. L'elisoccorso regionale ha effettuato delle lunghe verricellate da circa 90 metri per sbarcare il personale dell'equipe tecnico-medica di bordo sul fondo della forra. L'uomo, che è caduto da un'altezza di circa 6 metri battendo la schiena tra sassi e legni, è rimasto sempre cosciente, imbarellato, è stato verricellato a bordo e portato a Udine. E a Trieste è iniziata la demolizione della ex piscina terapeutica acquamarina. Le ruspe per cancellare e poi riscrivere la storia di uno degli eventi più disgraziati e contemporaneamente più fortunati di Trieste. Della piscina terapeutica acquamarina nel giro di due mesi non rimarrà che il sollievo, per il fatto che al momento del crollo del tetto, esattamente 4 anni fa, non ci fosse nessuno. In attesa del processo, partito la scorsa settimana con 5 rinvii a giudizio e udienze calendarizzate fino a marzo 2024, è partita la demolizione della struttura. La scorsa settimana si era lavorato all'interno, ora vengono giù i muri a occupare. Parsene sarà la stessa ditta che l'anno scorso aveva demolito la sala Tripkovic dall'altra parte delle rive. Si tratta della Ghiaia e Ponte Rosso di San Vito al Tagliamento. Il costo complessivo sarà di 800.000 euro. Una volta ultimata l'opera di abbattimento e bonifica, partirà il progetto per la costruzione di una nuova piscina dedicata a disabili anziani, dal costo di 5 milioni interamente finanziati dalla Regione. La nuova piscina sorgerà in un'area che sta cambiando radicalmente, con la nuova sede di Resatto, la ristrutturazione dell'ex stazione di Campo Marzio e la dismissione del mercato ortofrutticolo. Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Incendi devastanti a Rodi e Corfù. Chi decide di non partire non ha diritto ad alcun rimborso, a meno che non sia cliente di agenzie di viaggio o tour operator. Rodi e da oggi anche Corfù sono devastate dagli incendi. Quest'estate proprio le isole della Grecia sono ancora più che negli anni passati meta privilegiata di migliaia di turisti, complice anche il rincaro dei prezzi della vicina Croazia. Ma che succede ai turisti che ora si trovano intrappolati in queste zone così a rischio? C'è una differenza sostanziale tra i turisti fai da te, spesso senza assicurazione per eventualità come queste, e chi si è affidato invece ad agenzie di viaggio, che hanno l'obbligo di proteggere il viaggiatore senza costi a carico dei clienti. Come spiega il presidente del Friuli Venezia Giulia della Federazione delle Imprese di Viaggi e Turismo FIAVET, Giampiero Campaiola, e fa sapere che al momento i corregionali in situazione di grave emergenza sono pochi e tutti in procinto di rimpatriare. Alcune agenzie in queste ore hanno trasferito centinaia di persone a Rodi, ma in località sicure dell'isola, senza alcun costo aggiuntivo. La Farnesina sconsiglia principalmente i viaggi auto-organizzati. Per i viaggi dei prossimi giorni, da qui a una settimana, non dovrebbero esserci problemi, rassicura Campaiola, ma molto dipende dalla capacità di contenere le fiamme. Il forte vento non aiuta. Fino a che la Farnesina non prenderà decisioni più drastiche, i turisti fai da te che rinunciano a partire perché è comprensibile spaventati, non avranno diritto ad alcun rimborso né per il volo né per l'alloggio. Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. Alle 12.39 uno sguardo alla situazione del meteo. Il cielo è sereno, poco nuvoloso su pianura e costa, variabile sui monti. Le temperature registrate alle 11 a Trieste 27 gradi, mare calmo con temperatura di 27 gradi. A Udine 28 gradi, a Gorizia 30, a Pordenone 27. A Tolmezzo 24 gradi, sul Piancavallo 18 28 gradi, a Forni di Sopra 21 gradi e mezzo, a Tarvisio 24 gradi e 5 decimi, a Sappada 18 gradi. Sul Monte Lussari 16 gradi, sul Monte Zoncolan 15. Sulla costa a Lignano e a Grado 28 gradi, temperatura del mare nelle due località 27 gradi. Le previsioni dell'ARPA Friuli Venezia Giulia per le prossime ore: avremo cielo poco nuvoloso e venti a regime di brezza su pianure, costa e montagna variabile, con venti da sud-ovest moderati in quota. Dal pomeriggio sulla zona montana possibili rovesci e temporali sparsi che dalla sera potranno interessare anche altre zone della regione. I temporali potranno essere forti. Domani nuvolosità variabile in pianura, cielo nuvoloso sulla zona montana, più riprese durante il corso della giornata. Di domani saranno probabili rovesci e temporali sparsi che potranno essere anche forti, e scatterà alle 18 di oggi una nuova allerta meteo in Friuli Venezia Giulia, diramata dalla Protezione Civile per i forti temporali appunto previsti a partire da questa serata. L'allerta meteo resterà valida fino a mezzanotte di domani, martedì. Non potrà essere percepito per più di 7 mesi nel 2023, ma novità di quest'anno, si potranno avere contratti di lavoro stagionale fino a 3.000 euro. Abbiamo chiesto ai funzionari dell'INPS, che di recente hanno emanato una circolare, come sta cambiando nel concreto il reddito di cittadinanza. Terminano a luglio le erogazioni di reddito di cittadinanza per quei nuclei familiari che non comprendono minori disabili o ultra sessantenni, effetti della riforma varata dal governo nell'ultima finanziaria. Riforma che non interviene sui requisiti, che restano gli stessi. La novità più importante è invece la riduzione della durata, massimo 7 mesi nel 2023. Di recente una circolare INPS ha fatto chiarezza su alcuni dettagli tecnici. Per esempio, chi a dicembre aveva percepito 14 mensilità, quest'anno ne ha diritto a 4 secondo la vecchia normativa, che prevedeva un'erogazione di 18 mensilità prorogabili. Dopo un mese di sospensione potrà fare domanda, ma solo per altri 3 mesi, così da non superare i 7 mesi previsti per il 2023. Michelino De Carlo, funzionario della direzione provinciale di Udine dell'INPS. Sono tra l'altro esclusi dalla riduzione anche i percettori di reddito di cittadinanza che entro il 31 ottobre di quest'anno verranno presi in carico dai servizi sociali e dai centri per l'impiego per un'attività di inclusione sociale o comunque di riqualificazione professionale. Chi percepiva reddito di cittadinanza e assegno unico, legati l'uno all'altro, dovrà presentare domanda di assegno unico prima della scadenza del reddito. Con la vecchia normativa, inoltre, andava comunicata qualsiasi attività lavorativa. Con la nuova, chi ha un contratto stagionale, potrà non comunicare nulla fino a 3.000 euro. In Friuli Venezia Giulia il reddito di cittadinanza è percepito da oltre 7.000 nuclei familiari e 16.000 individui, 420 euro la cifra mensile media. Dal 1 gennaio verrà sostituito dall'assegno di inclusione. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Cinghiali fuori controllo, coltivazioni di mais distrutte, reddito delle imprese agricole compromesso. A rilanciare l'allarme è Coldiretti Pordenone, che spiega come nella fase di crescita più delicata del Gran Turco i cinghiali buttino a terra la pianta per raggiungere e mangiare la pannocchia. A dimostrarlo le riprese fatte con le fototrappole, dice Coldiretti, che chiede misure urgenti. La fauna selvatica fuori controllo, dice l'associazione, sta diventando un problema di equilibrio ambientale e un pericolo per la diffusione della peste suina, che comporterebbe un danno incalcolabile per la filiera con notevoli perdite economiche, oltre che un pericolo per la sicurezza stradale. Sanità, in un momento in cui mancano medici un po' in tutti i reparti e gli specializzanti, spesso appena formati, vengono subito presi dal privato, si distingue la scuola di urologia di Trieste, che forma gli urologi di tutta la regione. Prerogativa importante, però, fare un'esperienza all'estero. Assunti prima ancora di finire la specialità, si formano a Trieste, considerata una delle più importanti scuole di urologia d'Italia. Spesso contribuiscono ad arricchire i reparti di urologia della regione in più di 8 ospedali in un momento in cui i medici sono merce rara. Siamo al 12° piano dell'ospedale di Catinara, Fucina di giovani urologi. Si tratta del più antico reparto di urologia d'Italia, poiché fondato nel 1897 da Giorgio Nikolic, quando Trieste era ancora sotto l'impero austro-ungarico. I numeri degli specializzandi sono aumentati aumentati dal 2020, ma in un momento in cui spesso ci sono più posti che discenti, qui le 7 borse di specialità vengono subito occupate. I ragazzi provengono da tutta Italia. Siamo con il direttore della clinica urologica, professor Carlo Trombetta. Da 3 a 7 specializzandi avete ogni anno. Perché si sceglie di più Trieste? Cosa offrite in più? Una ampia rete formativa che interessa tutta la regione e negli ultimi anni della specialità la possibilità di andare all'estero. A proposito di estero, tra i ragazzi che incontriamo oggi c'è anche un giovane lombardo, Carlo Costi, ora pronto per andare a Parigi. Perché è importante fare un'esperienza fuori dal proprio paese? Perché poi questi ragazzi ritornano ancora meglio formati e con l'entusiasmo di applicare nel loro paese quello che hanno imparato all'estero. 21 specializzandi avete in formazione in questo momento, metà sono ragazze. Non c'è alcun pregiudizio da parte poi del paziente, del fatto di essere curato da una donna anche per problemi di questo tipo? Ma sì, assolutamente no, anzi è un vantaggio perché la donna riesce a comunicare meglio l'importanza di certe funzionalità anche del maschio e ho la soddisfazione di aver assunto qui a Trieste le prime 2 donne in urologia da quando appunto l'urologia è stata fondata molto molto tempo fa. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Ora la cultura, l'impatto del progetto Su e giù per le storie nei quartieri udinesi di San Domenico, Villaggio del Sole e Rizzi. Se ne è parlato questa mattina in regione a Udine per fare il punto sugli appuntamenti dedicati alla promozione della lettura che rientrano nel più ampio contenitore di Leggiamo 018, nessuno escluso. L'obiettivo del progetto è di portare i libri e la lettura fuori dalle biblioteche e raggiungere gli irraggiungibili, dando sostegno alle realtà locali che già lavorano all'interno delle comunità per favorire l'inclusione sociale. L'edizione 2023 si sta svolgendo nella periferia ovest della città di Udine, caratterizzata da quartieri popolari con una forte componente multilinguistica. Previsti ancora 2 appuntamenti, giovedì prossimo 27 luglio nell'area verde David Maria Turoldo del Villaggio del Sole dalle 17 alle 18:30 con gli operatori di Damatraci SB e Nati per Leggere che attendono i bambini da 0 a 6 anni e le loro famiglie per leggere insieme le storie della tribù che legge. Infine lunedì 31 luglio nell'area verde Ilaria Alpi alle 18 l'ultimo appuntamento con la tribù che legge insieme ad Amatrà. Tra turismo e cultura, Lignano Sabbia d'Oro fino a venerdì prossimo 28 luglio torna il corso di scrittura creativa organizzato dall'Associazione Culturale Lignano nel terzo millennio. Oggi il primo appuntamento con lo scrittore pordenonese Tullio Avoledo. Di questa iniziativa abbiamo parlato col direttore del corso Alberto Garlini. In cosa consiste esattamente e perché iscriversi? Sentiamo. Ogni anno cambiamo il programma, però di solito ci sono le cose fondamentali della scrittura. Sono la costruzione di una trama, la struttura appunto di una narrazione, la costruzione di un personaggio, la descrizione, i consigli di lettura, insomma tutto quello che rende possibile anche a chi non ne ha esperienza immaginare o provare a impostare un racconto, un romanzo. E quanto dura? Dura una settimana, che sono 5 mattine, dal lunedì al venerdì, per 2 ore e mezza ogni mattina. A chi è rivolto principalmente questo corso? È rivolto a 2 tipi di persone. Una è sono quelli che ovviamente vogliono scrivere o pensano di scrivere o hanno un progetto di questo tipo. Gli altri sono e fanno parte sempre di questa categoria le persone che vogliono anche imparare a leggere un po' meglio, perché si insegna anche a leggere in modo un po' più avvertito. E poi la seconda categoria di persone è quella che ama Lignano, perché lo scopo di questo corso è produrre un racconto durante l'anno che poi verrà inserito in un libro Lignano ti racconto, che viene poi presentato al primo incontro degli incontri con l'autore Colvino che ogni anno si tengono a Lignano. Molte persone tornano perché insomma il corso piace, comunque un'esperienza piacevole in un luogo bello d'estate col mare, quindi si può alternare il mare all'idea di scrivere, a qualche stimolo appunto narrativo, e quindi spesso succede appunto che alcuni di questi corsisti si vedano e si scambino appunto notizie, informazioni e consigli di lettura e di scrittura, e poi poi ovviamente ogni giovedì ci sono gli incontri con l'autore col vino, che sono un po' un catalizzatore, che è magari nei paraggi che poi ha fatto il corso, magari passa quella sera lì, poi si ferma a cena, quindi i rapporti continuano anche in questo modo. Insomma, un bilancio di questa lunga ormai esperienza più che ventennale del corso di scrittura Lignano? Il bilancio è positivo, perché il compito dei corsisti è scrivere appunto un racconto ambientato a Lignano durante l'anno. Nel corso del tempo sono venuti fuori racconti molto diversi fra di loro. Lignano ovviamente ha delle caratteristiche, sono quelle della vacanza, del mare, dell'amore, quindi si presta a questo tipo di racconti generalmente, o anche dei ricordi, della memoria, delle vacanze passate un tempo, però ci sono stati racconti anche horror, gialli, di fantascienza, per cui Lignano con questi racconti si è creato una specie di cielo di storie che sopra Lignano, dove appunto la città ha tante declinazioni, alcune anche impreviste, e come sappiamo oggi come oggi con l'omologazione che c'è, la cosiddetta globalizzazione, le città tendono ad essere sempre tutte uguali, no? Quello che le rende diverse sono i racconti che si riescono a scrivere. Lo sport, ora il calcio, sarà color corallo la maglia da trasferta dell'Udinese, che continua in Austria la sua preparazione. Domani la sfida con il Lipsia, mentre la Triestina, dopo l'amichevole con la Lazio, prosegue il suo ritiro a Ravascletto. L'Udinese che verrà prende forma a Zeeboden. Il test estivo contro i ciprioti del Paphos conferma quello che potrebbe essere l'impianto dei titolari di inizio stagione, quando la squadra di Sottil affronterà all'esordio la Juventus. Dopo la partenza in Turchia di Becao, la difesa è costruita sulle spalle di Perez, Biole e Masina. In mezzo al campo Wallace con Lovric e Samardžić interni. Sul giocatore tedesco della nazionale serba però c'è l'interesse di Inter, Napoli e Juventus. L'offerta vincente sarà quella intorno ai 30 milioni di euro voluti dal club dei Pozzo. Esterni Eizibue con l'alternativa Ebosele a destra e Hassan Kamara, ivoriano 29enne, o Zemura a sinistra. In attacco, con Deulofeu e Success ancora lontani dal rientro, Sottil punta su Toven e Beto, un gol a testa per loro per vincere l'amichevole contro il Paphos prima dei test di livello superiore con il Lipsia domani e Union Berlino sabato, entrambi all'Lienz. Udinese che quasi certamente vedrà partire un altro leader qualitativo come Pereira, questa volta a costo zero perché svincolato. L'approdo al Torino sembra cosa fatta, ma per i friulani il primo obiettivo del mercato in entrata è un difensore. La Triestina di Tesseri invece non ha ancora preso veramente forma. Il modulo, il 4-3-1-2, quello caro al mister di Montebelluna, riabbracciato quasi 20 anni dopo dai tifosi alabardati. Gli interpreti sul campo da definire. Intanto l'amichevole con la Lazio, vinta per 4-0 dai biancocelesti, con gol di Luis Alberto, Immobile, Zaccagni e Cancellieri, ha fatto vedere la voglia di tutti di mettersi al servizio della squadra e la capacità di non farsi travolgere dalla formazione di Sarri. E questo è già qualcosa. Di più arriverà con la fatica del ritiro alla Ravascletto, dove forse ci sarà tra poco anche Matteo Anzolin, terzino sinistro classe 2000 dal Wolfsberger. Sebastiano Franco, TGR Friuli Venezia Giulia. La nazionale italiana ha vinto anche la terza partita del gruppo C della Coppa del Mondo di Softball che si sta giocando nella nostra regione. Le azzurre hanno battuto nettamente il Canada per 6-1 sul diamante di Buttrio. Decisivi i 5 punti messi a segno nella quarta ripresa, momento chiave di una partita dove l'Italia ha giocato molto bene anche in difesa, guidata da Cristina Toniolo in pedana e Melanie Sheldon all'interbase. Le canadesi erano considerate alla vigilia le rivali principali per il secondo posto del girone, che in teoria doveva essere dominato dal Giappone. In realtà adesso l'Italia è in testa e cercherà di mantenere questo ruolo già dalla partita di questa sera, sempre a Buttrio contro le Filippine, prima dello scontro diretto con lo stesso Giappone previsto per domani. Le finali del gruppo sono in programma venerdì e valgono per la qualificazione alla fase finale del mondiale che si disputerà fra un anno proprio in Friuli Venezia Giulia. I migliori atleti nazionali del pattinaggio artistico a rotelle si sono dati a appuntamento a Piancavallo per i campionati italiani, un test per gli appuntamenti internazionali. Più di 400 atleti e 14 giorni di evento per i campionati italiani di pattinaggio artistico a rotelle al Palaghiaccio Palapredieri di Piancavallo, la cui organizzazione è stata affidata dalla federazione alla polisportiva Eurosport Village. Maurizio Zorni è presidente del Comitato regionale Friuli Venezia Giulia della Federazione Italiana Sport Rotellistici. È una location prestigiosa, nel quale sicuramente gli atleti trovano refrigerio, dove possono svolgere l'attività proprio, diciamo, ad hoc per le loro possibilità tecniche, qualitative a livello agonistico, chiaramente, dove li porteranno agli europei e ai mondiali, una cosa non di poco conto. Qui abbiamo anche tantissimi atleti, 400 e passa atleti, tra categorie junior, senior, cadetti, per quanto riguarda la danza e poi anche per quanto riguarda il singolo che verrà effettuato la categoria allievi nel prossimo fine settimana. Un importante banco di prova per i campionati mondiali ed europei. Fabio Ollan è commissario tecnico della Nazionale Italiana di Pattinaggio Artistico a Rotelle. È un banco di prova importantissimo, ovviamente io un po' mi affido alle classifiche, ma non solo, perché sono qua in veste di selezionatore, per cui poi confermerò o meno la partecipazione di questi atleti ai prossimi campionati internazionali. Freschi freschi di titolo italiano sono Altieri Gherardo, appunto, insieme alla Sasso Roberta, è una coppia mista, formata lui è della Fincantieri Monfalcone, lei è dell'Invicta Skate di Modena e si sono laureati campioni italiani nella coppia danza senior. Posso citare anche Qualizza Mattia del pattinaggio artistico Pieris, che ha fatto un secondo posto nella senior solo dance, anche lui ovviamente in pole position per una gara importante quali i campionati mondiali. Piancavallo, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Ci sono anche due atleti triestini a Fukuoka in Giappone per i mondiali di tuffi che inizieranno domani. Nel team azzurro Elisa Cosetti, che oggi compie 21 anni, bronzo ai campionati europei di Roma 2022 dove arrivava da esordiente, Davide Baraldi e Andrea Barnabà, 19enne di Trieste, nono agli europei, entrambi portacolori della triestina nuoto. Primo impegno le eliminatorie con un obbligatorio e un intermedio per le ragazze dai 20 metri e altrettanto per i ragazzi dai 27, mercoledì e giovedì, spazio invece ai liberi. Termina qui questo appuntamento con il giornale radio regionale, in regia Viola Romanese e Mauro Ciccarelli. In redazione ha collaborato Edoardo Veglia, da Lorenzo Gerlinzoni e Rita Micoli. Grazie per l'ascolto e l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.